I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. Anche se Piazza Affari ha registrato un più 4% venerdì scorso, si è chiusa la quarta settimana negativa consecutiva per le borse. È un momento ancora delicato, sullo sfondo continuano ad esserci gli stessi temi, a cominciare dalle politiche monetarie. In un nuovo intervento pubblico, la numero uno della Banca Centrale Americana, Janet Yellen, ha detto che l'economia americana ha fatto notevoli passi avanti e continua ad essere in buona salute nonostante venti contrari che arrivano dall'estero. E anche se i tassi di interesse restano vicini ai minimi storici, non ci sono segni di bolle negli Stati Uniti. Mario Draghi ha presentato invece il rapporto annuale della BCE sul 2015, dove ha difeso le misure di espansione monetaria che si sono rivelate, ha detto, efficaci, anche se l'inflazione è ancora troppo bassa e troppo lontana dall'obiettivo del 2%. Per i temi di Piazza Affari specifici, le banche hanno vissuto un'altra settimana tormentata. Il Senato ha dato il via libera alla riforma del credito cooperativo e al sistema di garanzie pubbliche delle cartolarizzazioni sulle sofferenze bancarie, ma non solo. Palazzo Chigi ha anche ospitato un importante vertice dei principali istituti di credito italiani. Si parla di un piano da 7 miliardi da parte del governo per sostenere le banche che devono rafforzare il proprio capitale. Conosceremo maggiori dettagli in questi giorni, e però è stata una pioggia di notizie che ha avuto la conseguenza di mandare a tappeto tutti i titoli del settore. C'è fermento anche nel settore dell'editoria, con l'iniziativa di Urbano Cairo, editore della 7, che ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sul capitale di RCS, di cui è già socio con oltre il 4%, e questo proprio nelle giornate in cui si è formalizzato lo scambio azionario fra Mediaset e il gruppo francese Vivendi. Per quello che riguarda i temi da monitorare nei prossimi giorni, ricomincia la stagione delle trimestrali americane sui conti della prima parte del 2016. Come sempre inizia il gigante dell'alluminio Alcoa, ma arrivano anche colossi finanziari JP Morgan e BlackRock. Arrivano anche i dati sull'inflazione sempre dagli Stati Uniti, vendite al dettaglio e produzione industriale, ma l'appuntamento più importante è fissato per domenica prossima a Doha, Qatar, dove è in programma la riunione OPEC sui tetti produttivi di greggio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. La crisi del sistema bancario italiano potrebbe essere un punto di svolta, anche se le incognite sono sempre le stesse: quale sarà il passo della ripresa economica, quale sarà il passo degli investimenti e della domanda di credito. In realtà sui fronti più caldi delle nostre banche, ovvero lo smaltimento dei crediti in sofferenza e le ricapitalizzazioni, segnali di schiarita sono percepiti non soltanto sul fronte bancario, ma soprattutto su quello della borsa. Infatti oggi il gran rally di tutti i titoli del settore bancario, un rally che è stato superiore e più intenso di quello degli altri paesi europei, fa pensare che questa volta la borsa guarda esattamente al nostro sistema creditizio come all'elemento che, se oggi le cose andranno bene nel tentativo di un grande accordo per rilanciare le banche, veramente il nostro sistema potrebbe fare un po' da propellente anche agli altri mercati. Ma che cosa si dovrebbe discutere oggi? La creazione da parte dello stesso sistema bancario, soltanto sotto l'egida del governo ma senza un coinvolgimento diretto finanziario, di una nuova grande finanziaria, una sorta di SGR che dovrebbe ricomprare i non performing loans dalle banche che hanno i bilanci più gravati. Ma non soltanto questo, la seconda gamba dell'operazione credito per il nostro governo è quello di favorire un fondo per le ricapitalizzazioni, altro nodo dolente, con i nuovi ratios patrimoniali dell'Europa e soprattutto con la necessità di presentarsi ai clienti e al mercato più solide, le nostre banche devono rafforzare il capitale. Insomma, operazioni non facili, ma che dopo tanti rinvii e dopo tanto tempo perso, finalmente stanno arrivando a compimento, non soltanto per la borsa, è bene ripeterlo, ma soprattutto per quelle migliaia, milioni di clienti delle banche che dopo la bancarotta dell'Etruria hanno cominciato a vivere in un momento di incertezza sulla solidità del sistema. Il sistema è solido, come ha detto il governatore della Banca d'Italia e come hanno detto gli europei, ma per farlo più stabile sicuramente servono questi interventi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. We'll be right back.